Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Avete mai sentito parlare della Titanca? Credo di no, e ne parliamo fra poco. Adesso però i titoli. Benvenuti e benvenute a Medius. Tanti e dimenticati sono gli esploratori italiani dell'Ottocento, le cui gesta un libro finalmente racconta. Un piccolo libro, una Bibbia, scritta a mano nel 1200, giunse fino in Cina e poi tornò indietro, verso il 1600, per essere venduta e ricomprata più volte. Ora un team di scienziati l'ha studiata per capire meglio la sua storia. Moscerini della frutta nutriti per 2 anni con cibo condito da nanoparticelle di oro. Quali conseguenze? Non buone, per fertilità e longevità. Traffico e trasporti, un binomio denso di problemi, ma qualche buona idea per risolverli si inizia a vedere. Il sottotitolo, quindi vuol dire che c'è un titolo, recita così: Storie dimenticate di naturalisti italiani di fine Ottocento. E queste storie adesso ce le racconta Stefano Mazzotti. Buonasera Mazzotti. Buonasera a tutti. Stefano Mazzotti è direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara e poi in particolare cura la sezione di zoologia, ma è anche autore del libro, allora adesso diamo il titolo, Mazzotti, Esploratori Perduti, edito da Codice Edizioni. Allora, Storie dimenticate di naturalisti italiani e quindi di esploratori in particolare, perché effettivamente la cosa singolare è che anche noi nel periodo d'oro, qual è il periodo cruciale, Mazzotti? Beh, il periodo in cui ho collocato, diciamo, questa storia risale dall'immediata dopo l'Unità d'Italia fino all'inizio, fino al raggiungimento del periodo della Prima Guerra Mondiale, sì. Sono questi decenni successivi all'Unità d'Italia. 50-60 anni, diciamo, 60 esatto. Anni cruciali, durante i quali il nostro paese ha avuto degli esploratori, è stata anche la stagione a livello mondiale dei grandi esploratori, però siamo tutti così come sintonizzati sul pensare che gli esploratori erano inglesi, erano tedeschi, erano francesi, mentre invece li abbiamo anche avuti noi, di importanti che sono andati in tutto il pianeta. Titolo Perduti è ovviamente riferito alla mancanza di memoria che abbiamo avuto di questo periodo e soprattutto dei personaggi, come diceva lei, di livello internazionale. Abbiamo avuto grandi scienziati che hanno viaggiato al pari di Darwin o altri inglesi come Wallace e hanno scoperto nuove specie, nuovi territori anche molto pericolosi da esplorare in quel periodo, con viaggi che non hanno nulla da invidiare quei grandi esploratori di altri paesi europei di quel dell'epoca. Sono andati in Asia, sono andati in Africa, sono andati in Sud America, quindi in tutti i continenti del sud del mondo che erano quelli nei quali si viaggiava di più. Oddio, però si andava anche al nord, no? In Siberia, per esempio. Sì, ad esempio ci sono dei nostri esploratori come Stefano Sommier, che ha esplorato la Siberia scoprendo anche dei popoli peraltro che non erano neppure conosciuti perfettamente dal governo russo, per esempio. Molto spesso succedeva che questi esploratori trovassero oggetti della natura, popoli che addirittura appunto non erano conosciuti neppure dai paesi sovrani. Sommier per esempio esplorò diverse zone della Siberia e fu uno dei primi botanici a descrivere decine di specie nuove della grande bioma della tundra e della taiga, per esempio. Lei citava la Siberia, io invece qui leggo un estratto che è una memoria di un esploratore nostro italiano, poi adesso lei ci dirà di chi si trattava. Questa memoria, leggo, è difficile esprimere la sensazione causata dalla presenza di questa pianta in un luogo così elevato e freddo, situato a circa 3.800 metri d'altezza. Era una pianta molto grande, no? La Titanca, io l'ho citata in inizio esatto. Di trasmissione. Qui con chi abbiamo a che fare? Con la pianta e anche con l'esploratore. Certamente, perché fra l'altro il nome scientifico Puia Raimondi è il nome del nostro esploratore Raimondi, che praticamente andò a vivere in Perù fuggendo giovanissimo dall'Italia perché aveva partecipato alle 5 giornate di Milano, fucile alla mano, e chiaramente gli austriaci lo braccavano per catturarlo. Lui è andato appena ventenne di partire e andare a vivere in Perù. Fra l'altro in Perù ancora oggi è conosciuto perché esiste un bel museo naturalistico del territorio proprio a Lima, dedicato a lui, che fu lui a fondarlo. E questo brano che lei ha letto è proprio uno dei bei racconti che lui sì. scrive quando esplora le Ande e scopre questa pianta gigantesca, peraltro oggi in grave pericolo di estinzione. Peraltro hanno scoperto specie che oggi peraltro sono appunto grave rischio di estinzione. È un lavoro di ricerca sulla biodiversità globale che ancora oggi ha un grandissimo valore. Ci sono anche dei riflessi però molto interessanti su quella che era anche la grande cultura popolare di quei decenni, perché nelle sue vicende si racconta anche di una relazione che questi esploratori ebbero con quel grande narratore Salgari, no? Sì, certo, che infatti è un'altra cosa che è un po' stata, come dire, coperta da altri eventi o comunque non è stata ben evidenziata, evidentemente, perché pochissimi sanno che Salgari non ha mai viaggiato, non è stato un viaggiatore, e quindi i racconti di paesi così lontani, esotici, personaggi stessi, molto spesso Salgari li ha tratti dai diari, dai bellissimi libri, dai racconti di viaggio effettivamente sviluppati dai nostri scienziati naturalisti. Posso citare per esempio Odoardo Beccari, che è stato uno dei primissimi esploratori del Borneo. A quei tempi le isole dell'Indonesia, della Malesia erano veramente dei luoghi lontani e sconosciuti, anche spesso fra l'altro diciamo molto pericolosi, dovuti alla presenza di nativi, anche i famosi cannibali tagliatori di testa. Che non amavano molto gli esploratori. Giustamente, vedevano nei bianchi che esploravano queste aree anche come un po' degli usurpatori del loro territorio. Odoardo Beccari vive in Borneo e conosce il Rajà, è un possedimento inglese, che si chiama James Brook, diventa amico, e James Brook stesso aiuterà il nostro esploratore a muoversi all'interno di un'isola così grande ma anche molto difficile perché non ci sono strade eccetera. E Salgari riporta pari pari il personaggio come grande nemico di Sandokan. Io peraltro nel libro proprio riporto una frase dei tigrotti di Mombrachen che vengono affrontati dalle truppe di James Brook. Quindi è una letteratura di viaggio fantasiosa che peraltro si basa invece su dati veri, molto precise della vegetazione, degli animali, dei popoli, tratta dai nostri esploratori. Allora, io ricordo Stefano Mazzotti era qui con noi, l'autore, Esploratori perduti, il libro edito da Codice Edizioni. Grazie Mazzotti. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Che tipo di quiz c'è ora? Natatorio. In questa puntata non abbiamo tempo per rispondere a una vostra domanda, ma il quiz che vi facciamo ora assomiglia moltissimo a una domanda che avreste potuto mandarci. Il quiz è il seguente: hanno fatto questo esperimento. Una piscina è stata riempita da una sostanza del tutto simile a uno sciroppo, come quelli per la tosse, e un gruppo di 16 nuotatori hanno nuotato nello sciroppo. Poi li hanno fatti nuotare in una piscina normale, con l'acqua e sulla stessa distanza. Erano tutti nuotatori da gara, badate. Bene, come è andata calcolando i tempi? Prima possibilità, si nuota più velocemente in acqua perché l'acqua è meno densa e ci scriverete acqua. Oppure più velocemente nello sciroppo perché si galleggia di più e scriverete sciroppo. Terza possibilità, è uguale e ci scriverete uguale. Ci scrivete sempre con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince è quello di cui vi abbiamo appena parlato. Stefano Mazzotti è l'autore, il titolo è Esploratori perduti, edito da Codice Edizioni, e questo libro vi è offerto da Librerie Rizzoli. La Via della Seta, Marco Polo, Una Bibbia e il suo proteoma. A Detective Story, c'è scritto nel titolo di questo articolo, che però è un articolo scientifico, cioè una storia un po' poliziesca. E per parlare di questa storia, che è un mix effettivamente di un'avventura molto curiosa e strana dal punto di vista storico, archeologico, artistico e anche però dal punto di vista scientifico, sono qui a parlare con noi due docenti del Politecnico di Milano. Pier Giorgio Righetti, buonasera Righetti. Buonasera. Docente appunto al Politecnico, e lei dirige un laboratorio di proteomica. Adesso capiremo perché c'entra la proteomica con quello che stiamo per raccontarvi. E poi c'è anche Lucia Tognolo. Buonasera Tognolo. Buonasera, buonasera a tutti. Anche lei docente al Politecnico, e lei dirige un laboratorio di materiali e metodi per i beni culturali che afferisce al Dipartimento di Chimica. Allora, incomincio da lei, Lucia Tognolo. Qui si dice nel titolo di questo articolo, che è un articolo scientifico, ma in realtà ha veramente un titolo che andrebbe benissimo anche su un settimanale di grande tiratura, c'è di mezzo una Bibbia antichissima. Sì, questa Bibbia risale sicuramente al XIII secolo, quindi è stata, diciamo, datata soprattutto rispetto al testo che contiene, una Bibbia in latino di piccolo formato, piccolissimo formato, che oggi sta nella collezione della Biblioteca Medicea Laurenziana a Firenze. Piccola quanto? Sono pochi centimetri, 11x16, diciamo. Quindi praticamente tascabile, però se siamo nel 1200 vuol dire che era scritta, stampata a mano, come si suol dire. Assolutamente sì, è un manoscritto su pergamena, i caratteri hanno proprio circa mezzo millimetro di altezza, quindi è scritta in due colonne e anche il testo è adattato per questo formato. Quindi un miracolo dell'artigianato. Questa Bibbia è finita in Cina. Infatti si chiama da tantissimo tempo, dal 1600 è stata denominata la Bibbia di Marco Polo, perché questa Bibbia probabilmente appena manoscritta è stata, diciamo, portata in Cina da quelli che si chiamavano gli ordini mendicanti, cioè frati, probabilmente francescani, domenicani, eccetera, che andavano a fare i missionari in Cina e dovevano avere almeno una Bibbia. Quindi praticamente il formato tascabile nasce per esigenze di viaggio. Per esigenze di viaggio. È andata in Cina, là sarà dunque ad occhio e croce, dovendo tornare, no? Così la ricostruzione che voi avete fatto verso la fine del Seicento c'è stata circa 400 anni, poi com'è che tornate indietro? È stata portata sicuramente, di questo abbiamo notizia certa, da un gesuita, questo Philippe Couplet, che torna, diciamo, dalla Cina, viene dalla Cina nel 1685 portando circa 400 volumi cinesi dalla Cina in Italia, in Italia direi in Europa, perché in parte li lascia alla Biblioteca Vaticana, in parte li porta in Francia e nel viaggio dal Vaticano alla Francia si ferma a Firenze e a Lucca e fa dono di 14 volumi soltanto al Granduca di Toscana Cosimo III dei Medici, probabilmente alla fine di dicembre del 1685, e lascia a Cosimo III questa Bibbia. Pier Giorgio Righetti, questa Bibbia è in condizioni abbastanza buone, credo, no? E però voi ci avete fatto sopra un lavoro di indagine molto accurato per riuscire a capire che cosa. Dunque, allora, bisogna fare una premessa, che gli storici fino al giorno d'oggi, e ancora lo trovate in internet, sui libri ufficiali, eccetera, gli storici dicono che questa pergamena era stata ottenuta addirittura da feti di agnello. Ora, la motivazione era che questa pergamena è estremamente sottile, per dare un'idea, cioè lo spessore sono 80 micrometri, che è uno spessore spaventosamente basso, persino noi oggi con le metodiche moderne sui, diciamo, sugli strati di nitrato di cellulosa che usiamo per fare il blotting delle proteine, questi sono fatti con uno spessore di 100 micrometri. Di più. Quindi, sì, di più. Quindi è straordinario che si sia arrivate a delle certo, pelli così sottili. E allora si pensava che fossero fatte con feti di agnello. Feti di agnello. Giustificazione è che, avendo tante pagine ed essendo piccola, bisognava utilizzare qualcosa, un materiale particolare. Esatto. Esatto, sì, questo è giusto. Però invece ci sono dei problemi pratici. Ah. Cioè, noi non siamo esperti in materia, però abbiamo trovato un produttore che ancora oggi fa le pergamene come si facevano una volta in Piemonte, l'ho chiamato, ci siamo fatti spiegare, lui dice: ma da un feto di agnello, anche con delle pagine di dimensioni così piccole, 11 per 16 centimetri, dice, al massimo si possono produrre due pagine, quindi due fogli di pergamena. Siccome queste Bibbie in genere avevano circa 600 pagine, voleva dire che bisognava sacrificare 300 feti di agnello. Per un libro? Per un libro. Attenzione, questi libri, queste Bibbie sono state prodotte praticamente tutte tra il 1235 e il 1300 alla Sorbonne di Parigi. Perché la Sorbonne si era specializzata in teologia, quindi gli studi teologici si facevano lì. Però in questo arco di tempo, questi dal 35 al 1300, la produzione delle Bibbie, pur essendo fatta tutta da amanuensi su pergamene, aveva assunto quasi un processo industriale, ne hanno prodotte 10.000. Ah, quindi non ci sarebbero più agnelli in Europa. Era spaventoso per l'epoca, no? Una strage di agnelli sarebbe stata. Esatto, avrebbe comportato il fatto che, se questo fosse vero, avrebbero massacrato 3 milioni di feti di agnello in un periodo in cui, si sa bene, c'erano carestie, c'era la fame, c'era la miseria assoluta. Non credo che sia stato certo. La gente se lo potesse permettere, a parte poi i costi, avrebbe avuto dei costi altissimi. Siccome poi queste Bibbie venivano comprate non da gente ricca, ma da, diciamo, studenti, frati, predicatori, eccetera, è chiaro che non dovevano avere dei prezzi altissimi. Dovevano essere accessibili, certo. Abbordabili. Certo. Ecco, ma voi invece allora cosa avete scoperto? Allora noi ci siamo domandati, va bene, allora proviamo a vedere se riusciamo ad fare la proteomica di questa, di questa pergamena, cosa che nessuno è mai riuscito a fare fino al giorno d'oggi. Cioè andare a vedere che tipo di proteine ci sono in queste pagine. Che tipo di proteine ci sono dentro. La prima difficoltà che abbiamo incontrato è stata quella di digerire, cioè per poter fare analizzare le proteine di un tessuto, di una cellula, bisogna portarle in soluzione. Già. E poi digerirle con un enzima che si chiama tripsina. Finalmente la dottoressa D'Amato, dopo diversi tentativi, che è la nostra esperta di spettrometria di massa, è riuscita a digerire parzialmente un piccolo frammento, che era un margine della pergamena ovviamente. Siamo riusciti a identificare ben 8 proteine tipiche della, diciamo, della pelle, di cui 4 tipi diversi di collagene, una proteina che si chiama mimecan e così via, che sono proprio tipiche di questo strato di pelle. E che animale è venuto fuori? Le attribuzioni che siamo riusciti a dare andando a consultare i database, cioè è venuto fuori il vitello, che ovviamente comunque dovevano essere, diciamo, sacrificati abbastanza piccoli, al massimo alla fine del secondo mese, perché dopo la pelle diventa troppo dura e spessa e probabilmente... Però voglio dire, da un vitello anche di circa 2 mesi uno poteva utilizzare la pelle, ma utilizzare anche poi la carne, cioè si poteva nutrire anche della gente, mentre dubito che da un feto si possa ricavare qualcosa di edibile. E noi abbiamo avuto queste identificazioni, che comunque riteniamo sia un passo avanti notevole, perché ripeto, nessuno è mai riuscito in reperti così antichi e poi in pergamene a fare nessun tipo di indagine. Pier Giorgio Righetti, grazie. Lucia Tognolo, grazie. Buon lavoro e teneteci informati su altri sviluppi delle vostre ricerche. Grazie a voi. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci. Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La soluzione del quiz, eccola qua. Il tema era: si nuota più velocemente nell'acqua o nello sciroppo? Il risultato è stato un sostanziale pareggio, quindi è uguale. In acqua il corpo umano è soggetto a minore resistenza viscosa e quindi va più veloce, ma nello sciroppo il movimento delle braccia e delle gambe rende di più, perché lo sciroppo offre più tenuta alla spinta muscolare, possiamo dire così. I due effetti opposti di fatto annullano le differenze. Si calcola però che se il corpo umano fosse in grado di sviluppare più forza di quanto riesce ad esprimere, andando a velocità fuori standard rispetto a quelle massime, allora diventerebbero predominanti gli effetti frenanti della fluidodinamica dello sciroppo. Questa era la risposta e adesso andiamo al nostro appuntamento con le nanotecnologie. Mebius presenta Nanochannels. Nanochannels. Il progetto europeo sulle nanotecnologie. Stiamo continuando con le nanotecnologie all'interno del progetto europeo. Ormai credo che chi ci ascolta, Chiara, sa che con una certa... Il progetto Nanochannels. Nanochannels. Dobbiamo fare degli appuntamenti di informazione sulle nanotecnologie, su tutti i loro aspetti, quelli più controversi, quelli che sembrano positivi, quelli che creano dei dubbi. E a proposito di ciò, Chiara, ricordiamo... Ecco, io ricorderei anche che è un progetto importante europeo, ci abbiamo anche dei partner importanti, che sono il Guardian e il Mondo, insomma, in Spagna, che sono il Guardian due Inghilterra, importanti quotidiani, che hanno delle loro inchieste che fanno sui loro siti internet con i loro lettori, Anche noi l'abbiamo e loro sono avanti. Ecco, noi quindi esortiamo tutti gli ascoltatori a partecipare anche ai nostri sondaggi che trovano sulla home page del nostro sito www.moebiusonline.eu, dove appunto chiediamo di partecipare a dei dibattiti, dei sondaggi che ci danno informazioni su come si relaziona il pubblico. In pratica c'è una trasmissione, sono due trasmissioni da ascoltare, poi ci sono le indicazioni per andare a votare. Che cosa pensate di questo? Ci sono delle risposte che vi abbiamo dato, potete scegliere quale delle tre vi sembra più aderente. Mi raccomando, perché gli inglesi e gli spagnoli sono avanti. Ecco. Un po' di campanilismo facciamo. Va bene. Oggi invece dove andiamo, Chiara? Allora, oggi andiamo a Lecce. Ci tengo a precisare che questa segnalazione di questa ricerca importante in campo della tossicità relativa alle particelle nanotecnologiche ci arriva da Twitter. Quindi approfitto per ricordare il nostro canale Moebius _ quindi _ online, ci trovate su Twitter, e ce l'ha appunto mandata un nostro ascoltatore. Ci ha segnalato questa ricerca che viene dal Centro di Nanotecnologie Biomolecolari dell'Istituto Italiano di Tecnologie, che ha appunto sede a Lecce. Hanno studiato come funziona, come vengono recepite le nanoparticelle su Drosophila melanogaster, cioè sempre su di lei, sempre sul moscerino della frutta. Gliene fanno fare di tutti i colori e questa volta gli hanno fatto mangiare le nanoparticelle. Ma colleghiamoci con chi questa ricerca l'ha fatta. Pierpaolo Pompa, buonasera. Salve, buonasera. Buonasera Pompa. Ecco, lei è direttore del centro che abbiamo appena citato. Ci racconti che tipo di studio avete fatto su Drosophila melanogaster? Noi abbiamo questa attività di ricerca di nanotossicologia, e che prevede lo studio sistematico con tecniche interdisciplinari dei potenziali effetti tossici di nanoparticelle. E quindi, imparando dalle lezioni del passato, tipo ciò che è successo nel caso dell'amianto, che è stato usato per decine di anni e poi si è scoperto che era molto pericoloso, quello che si vuole cercare di fare nel caso delle particelle è capire se ci sono dei potenziali effetti tossici, perché ci sono gli effetti tossici, quali sono i meccanismi responsabili, le proprietà delle nanoparticelle responsabili, in modo da evitare appunto casi tipo amianto. Pompa, sono almeno 2 anni che voi cosa avete fatto? Avete cibato, o meglio, avete inserito nel cibo di Drosophila, del moscerino della frutta, delle nanoparticelle di cosa? Delle nanoparticelle di ovo. Noi abbiamo usato Drosophila perché è un ottimo sistema di screening per ingestione di nanoparticelle, perché è un ottimo modello in generale per studiare aspetti genetici e tossicologici. Nel caso dell'ingestione ha un apparato digerente che è molto simile a quello dell'uomo. Quindi noi abbiamo fatto questo studio sistematico che è durato 2 anni, perché dovevamo screenare migliaia di individui da un punto di vista fenotipico. Allora, quello che ne abbiamo fatto è abbiamo dato delle dosi abbastanza basse di nanoparticelle alle drosofile. Le drosofile le acquisivano durante il loro ciclo di vita, che dura circa 3 mesi, e andavamo a studiare tutta una serie di effetti che vedevamo sulle drosofile. Quello che si vedeva sugli organismi che avevano mangiato queste drosofile durante il loro ciclo di vita è che avevano un chiaro accorciamento del loro ciclo di vita medio. Parliamo del 30-40% in meno. Dopodiché c'era una riduzione di fertilità. Facendo delle analisi molecolari trovavamo tutta una serie di parametri dello stress accresciuti, del danno al DNA di tutta una serie di cellule dei tessuti di drosofila. Insomma, non conseguenze particolarmente positive, direi. Assolutamente no. Ecco. Proprio il fatto di aver visto che queste particelle erano genotossiche, ci siamo spinti, e qui è durato, è perché lo studio è durato tanto a lungo, ci siamo spinti a studiare le generazioni successive. I figli e i nipoti, insomma, per capirci di queste drosofile che avevano mangiato le nanoparticelle. È molto importante che i figli e i nipoti non hanno mai visto, non sono mai stati esposti a nanoparticelle, solo i genitori sono stati esposti. E poi invece ne abbiamo studiati i figli che hanno fatto una vita normale. Quello che abbiamo visto, c'era un tasso di mutazione nei figli e nei nipoti che era decisamente più alto che rispetto, al tasso di mutazione naturale, che è molto molto basso. Quindi si trasferisce da una generazione all'altra. Certamente. Quello che si vede è che siccome i genitori subiscono delle mutazioni genetiche, questi danni al DNA, nelle generazioni successive si vedono dei danni chiaramente visibili a livello morfologico. Ecco, a livello di una popolazione, quanti individui presentavano queste conseguenze negative? Esatto. Cioè, non per tutta la popolazione c'erano queste conseguenze. Ecco. C'era un tasso che comunque è molto basso, è molto difficile quantificare. in questo momento non siamo in grado di dare una percentuale precisa, stiamo parlando chiaramente di pochi punti percentuali, altrimenti insomma questa cosa sarebbe stata un veleno catastrofico, no? Ecco, e in ogni caso anche avere il 2-3% popolazione insomma che non è mai stata esposta a nulla e che nasce mutata è una cosa di una rilevanza insomma drammatica, infatti, no? Quindi infatti. È una cosa molto molto preoccupante. Quindi ciò che vedevamo c'erano questi fenotipi aberranti, cioè vuol dire questi insetti con delle malformazioni molto molto evidenti, e in alcuni casi siamo riusciti a isolare geneticamente questi ceppi, e in particolare ne abbiamo isolato uno che era particolarmente terrificante a vedersi, un moscerino che al posto di avere due occhi può arrivare ad avere 8 occhi. Ah. Quindi è una cosa visivamente molto cambiamento impressionante. È impressionante, impressionante. Sì. Senta, senta Bompa, le chiedo questo però, voi avete fatto ingerire oro, no? Quello che a noi interessa è adesso differenziare. Da una parte l'ingestione rimanda ai farmaci, no? Però può anche rimandare invece al fatto che, per esempio, nella lavorazione di strumenti nei quali entrano nanoparticelle ci potrebbe essere dell'oro, e allora chi ci lavora lo ingerisce, no? Sono queste le due aree sulle quali bisogna avere attenzione. Probabilmente dal punto di vista dei farmaci l'oro non è interessante, mentre invece è per chi è vicino alla lavorazione di strumenti nanotecnologici. Sui farmaci ci sono tutta una serie di farmaci che si stanno sviluppando e che prevedono l'uso di nanoparticelle di oro, ma questa fase mi preoccuperei un po' meno, di queste cose, perché magari ci sono delle dosi molto molto basse. La cosa importante invece sono questi processi industriali o questi prodotti che potrebbero contenere in futuro nanoparticelle. Ci sono per esempio degli spazzolini in cui nelle setole ci sono nanoparticelle di argento, ci sono tutta una serie di tematiche legate al packaging degli alimenti. Esatto, è quel settore. Una serie di cose. Allora, il punto è cercare di capire, questo diciamo è quello che noi stiamo cercando di fare negli studi correnti, perché veramente queste nanoparticelle sono genotossiche, ma soprattutto come si può ovviare cioè mantenere le nanoparticelle. Ecco, infatti la cosa importante è come si può ovviare, ecco. Certamente. Lo scopo della nostra ricerca è quello di cercare di capire i meccanismi. Cioè, prima di tutto, se le nanoparticelle quali sono tossiche e quali non sono tossiche, nel momento in cui sono tossiche quali sono tossiche, in modo tale da capire se alcune particelle non dovrebbero essere usate nelle applicazioni future, quindi fare una regolamentazione molto stringente, oppure possono essere utilizzate normalmente a patto di essere opportunamente ingegnerizzate. Che significa? Significa, per esempio, quello che abbiamo osservato con risultati preliminari nel caso dell'oro è che se le rivestivamo con dei polimeri comuni molto molto corti, per cui non cambiavamo veramente le proprietà fisico-chimiche delle nanoparticelle. Detto in maniera semplice, venivano incapsulate, ecco, per intenderci. Venivano incapsulate in dei polimeri. E quello che vedevamo è, per esempio, che la tossicità e la genotossicità crollavano drasticamente, quindi queste particelle si potevano definire quasi biocompatibili. Non venivano assimilate? Probabilmente, stiamo studiando questa cosa in dettaglio, probabilmente non venivano bioaccumulate. Cioè non si depositavano ad ogni ingestione. Il problema è che però incapsulate potrebbero non essere attive. In realtà le proprietà, per esempio, dipende dalla ragione per cui si usano le nanoparticelle. Se le particelle, per esempio, di oro si usano per le proprietà ottiche o per funziona. Nei sensori, le proprietà ottiche non sono assolutamente perturbate. La stabilità delle particelle viene addirittura migliorata. Quindi, per esempio, per una serie di applicazioni basterebbe fare dei rivestimenti che però garantiscano lunga vita, no? Una stabilità negli anni. E magari non c'è nessun tipo di problema. Poi ovviamente si possono pensare ulteriori tipi di ingegnerizzazioni nel momento in cui saremo in grado di capire esattamente perché l'oro su nanoscala provoca questi effetti, diciamo, di genotossicità. Ecco, quindi la vostra ricerca, diciamo, va un po' in quella direzione, cioè capire un po' il meccanismo, come funziona, dove ci sono i problemi e come superarli. Esatto. Cioè cerchiamo, siccome siamo in tempo, cioè le nanoparticelle non vengono usate da 50 anni indiscriminatamente, cioè il mercato sta nascendo adesso, Se noi prendiamo appunto la lezione dal passato e l'esempio più eclatante è l'amianto, se noi cerchiamo di studiare subito, di fare uno screening massivo, effetti, che è quello certo. che la comunità internazionale in realtà sta facendo, perché ci sono degli sforzi da parte di tutta la comunità europea, degli enti di regolamentazione degli Stati Uniti, mm-hmm. sono anche molti istituti in Cina, in Giappone, quindi insomma c'è una sensibilità scientifica per fortuna molto molto alta e le varie agenzie che erogano i fondi per la ricerca stanno investendo svariati decine di milioni di euro su questa cosa, quindi per una volta si ha la sensazione che siamo ancora in tempo. Sì, assolutamente in tempo, che ci sia proprio la sensibilità giusta. Va bene, grazie Pompa, buon lavoro. Va bene, grazie, arrivederci. Grazie, arrivederla. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Allora qui verrebbe fuori che Antonio e Cleopatra, Chiara, hanno avuto due gemelli. Sì, in realtà hanno avuto tre figli, di cui due gemelli, di cui si è trovata traccia. E chi ha trovato traccia? Un'egittologa italiana dell'Istituto di Studi sulle Tecnologie Italiche e del Mediterraneo Antico del CNR nazionale. Intanto buonasera, diamo il benvenuto a Giuseppina Capriotti. Buonasera. Buonasera Giuseppina. Ecco, abbiamo detto giusto, no? Li ha trovati lei questi due gemelli, dove? È una scultura che si trova al Museo del Cairo e che era già stata trovata parecchio tempo fa, ma mai attribuita, e nella quale io ho riconosciuto appunto l'immagine di questi due gemelli, questi due bambini nati da Antonio e Cleopatra prima del matrimonio. Ma lei ne parla come se avesse successivamente da Antonio. Sì. Ma lei ne parla come se avesse avuto una foto e ha detto: "Ah, beh, ma sono loro due". Come ha fatto? Come ha fatto, scusi. Allora, ho fatto 2+2, ma quasi. Con delle competenze di tipo egittologico e anche riguardanti il mondo classico. Ecco, siamo in epoca ellenistica, Cleopatra è una regina egizia, ma di origine macedone. Mm. E quindi questa scultura è una scultura che ha sia caratteristiche egizie che caratteristiche greche, quindi richiede una competenza, diciamo, su due fronti, su due versanti. Quindi già questo era un indizio. Prima di tutto, da un punto di vista stilistico, la statua, la scultura si colloca precisamente nel periodo di Cleopatra per dei confronti con altre sculture ben datate nel tempo. Poi questi due bambini hanno sul capo ciascuno un coronamento astrale. Il maschietto ha il sole e la bambina ha la luna. E questi due gemelli, noi sappiamo che quando Antonio li riconobbe come figli, ebbero dei nomi aggiuntivi, mentre prima si chiamava Alessandro l'uno e Selene l'altra, poi divennero Alessandro Helios, cioè il sole, e Cleopatra Selene, cioè la luna, l'altra. Ecco qua. E questo quindi ci perché? Sono i due coronamenti che li identificano con una certa chiarezza. Poi c'è anche una cosa curiosa, che probabilmente nell'epoca del riconoscimento di questi due bambini come figli da parte di Antonio ci fu un'eclisse. Ah, e quindi, ecco qua. Probabilmente questo evento astrale fu riconosciuto per una valenza, potremmo dire, come sempre, e no? Anche allora, certo, le eclissi erano sempre di grande significato. Sì. Quindi lei ha messo insieme questi dati, perché abbiamo anche una storia di quel periodo, certo. E i conti tornano. Certo, io li ho messi insieme in base alla storia che conosciamo, in base ai dati anche iconografici, i dati stilistici che si rilevavano sulla scultura. Mi sembra interessante, poi per chi volesse mettiamo le foto sul nostro sito, però se ci descrive queste raffigurazioni, perché mi sembra che siano anche particolari le acconciature di questi bambini. Sì, sono particolarissime, nel senso che è una scultura unica nel suo genere. Molte volte si ha l'idea che l'arte egizia si ripeta, no? Sia molto ripetitiva, non è così, ma in questo caso si va proprio fuori dalla tradizione, anche se ci sono degli elementi di tipo tradizionale egizio molto evidenti. Allora noi abbiamo due bambini, due gemellini, bambino e bambina, che si abbracciano, si tengono abbracciati e allo stesso tempo emergono dalle spire di due enormi serpenti. Ui. Che li avvolgono alle gambe e il capo dei due serpenti si leva levano ai lati dei due bambini e i due bambini tengono abbracciati anche i due serpenti, che in questo momento però hanno la testa spezzata. E in più i due bambini hanno questo coronamento astrale che prima citavo, cioè il sole per il bambino, la luna per la bambina. Serpente, adesso, Cleopatra, ci stiamo buttando sul serpente di Cleopatra? No. Allora, diciamo che il serpente in Egitto è un'immagine importantissima in ambiente mitologico, e addirittura in quest'epoca le divinità potevano essere proprio raffigurate come serpenti, anche nella scrittura il serpente è un indicatore della divinità. E allo stesso tempo abbiamo dei testi che ci dicono che i due occhi astrali, il sole e la luna, possono anche essere raffigurati come serpenti. Quindi questi due serpenti potrebbero anche essere, come dire, un doppio dei due bambini o un indicatore che loro stessi sono in qualche modo divinità. Ecco, non si sa il destino di questi gemelli in età adulta dopo il suicidio dei genitori, non si sa allora, che cosa. Del bambino, dunque, i due bambini vennero portati a Roma. Poi del bambino si perdono molto presto le tracce. Invece della bambina sappiamo che in età adulta andò sposa a Giuba II, re di Mauretania, che era un regno nell'attuale Algeria, fedele ad Augusto, questo sovrano, e gli venne data in sposa, proprio anche per un matrimonio politico di una certa importanza, quella che era l'erede dell'Egitto, che ormai però non aveva più un regno da ereditare in Egitto. E quindi della bambina sappiamo che è regina in Mauretania, l'attuale Algeria. Del bambino invece non si sa più nulla. E poi mi piace molto che comunque Antonio e Cleopatra tornano sempre nel gossip scientifico, non finiranno mai. Va bene. Sono personaggi affascinanti. Troppo affascinanti. Grazie Capriotti, buon lavoro. E grazie, buona giornata. Arrivederci, buon lavoro. Buonasera. Infomobilità, stiamo per parlarvi di questo, di questi sistemi tendenzialmente informatici che dovrebbero migliorare molto la mobilità nelle città e quindi siamo dentro questa grande cornice delle Smart City. Per parlare di questo tema ho qua con me un collega, Ludovico Ristori, ciao. Ciao Federico. Del Master in Comunicazione Scientifica e Innovazione della Università Bicocca di Milano, ma abbiamo anche al telefono Rossella Panero. Buonasera Panero. Buonasera a voi tutti. Amministratore delegato di 5T, azienda a partecipazione pubblica del Comune di Torino e azienda che si interessa appunto di queste soluzioni che possono dipendere dalle informazioni che ci dà l'infomobilità. Panero, so che lei è a Amsterdam, dove si sta tenendo Intertraffic, grande appuntamento internazionale dedicato appunto a questi temi. Che cosa si sta dicendo lì? Qui quello che emerge, più che diciamo nuovi prodotti, nuove tecnologie, emerge la gran voglia da parte di tutte le città, che infatti hanno fatto degli stand molto importanti, di diventare smart. E in particolare parlano qui di smart mobility, quindi tanta auto elettrica, tantissime applicazioni per smartphone di ogni genere e specie per aiutare la mobilità delle persone, da quella che ti trova il taxi più vicino a quella che ti consente di capire dove puoi ricaricare l'auto elettrica, insomma veramente la volontà degli enti locali che gestiscono la mobilità di fare tutto il possibile perché le loro città diventino smart. Questi progetti di smart city sono promossi o comunque desiderati soltanto da città o aree metropolitane molto grandi o ci sono anche dei desideri delle applicazioni da parte di comuni e enti locali più piccoli? Beh, no, naturalmente c'è il desiderio da parte di molte città di diverse dimensioni. Le città più grandi forse da un lato hanno le esigenze maggiori perché hanno problemi più gravi di congestione, di traffico, di parcheggi e dall'altro sono quelle che già da anni hanno preso delle iniziative. E poi immagino che ci sia questo problema che ormai, per esempio in un continente come il nostro, in Europa, la grande area metropolitana che però ha intorno, ma in un raggio di 100-150 chilometri anche, tutta una serie di comuni più piccoli, ma che ormai sono talmente intrecciati dal punto di vista della mobilità che è difficilissimo separare. non solo, questo significa che ogni giorno queste città, lasciatemi usare questa espressione un po' esagerata, si riempiono e si svuotano. È chiaro che i grandi centri hanno guadagnato, diciamo, una posizione avanzata sia per maggiori problemi che per aver cominciato prima, ma le amministrazioni di quelli piccoli, dei satelliti, sono allo stato dell'arte, diciamo, nell'ottica di collaborare insieme in un processo che li vede tutti coinvolti, come poi fisicamente è, oppure ancora prevalgono un pochino delle logiche di disaggregazione che quindi finiscano per essere poi un punto problematico per progetti su larga scala? Tra l'altro questo è un problema che è tutto dentro Smart City, cioè, e quindi è giusto anche analizzarlo dal punto di vista dell'infomobilità. C'è questo problema che ognuno vuol fare le sue cose. Allora, secondo me adesso siamo proprio in una fase molto interessante di transizione da questa logica, lasciatemi dire, un po' individualista anche da parte degli enti locali, alla logica invece della vera integrazione, che è molto spinta, al di là di quella che può essere la volontà dei singoli enti, anche per esempio dalla direttiva europea sulla diffusione dei servizi e dei sistemi ITS. Punta proprio sull'integrazione, sull'interoperabilità, quindi sul superamento di queste barriere che, oltre che essere confini amministrativi, tante volte sono proprio anche dei culturali, confini un po' mentali. Ecco. Certo. Ecco, ma c'è una cosa, secondo noi c'è un po' questo problema. Quando si parla dei dati che si possono raccogliere in modo nuovo su tutto il traffico per poi restituirli, anche riportarli alla gente in modo altrettanto nuovo. Io credo che, diciamo, lo sforzo importante che si sta facendo in questo periodo a Torino sicuramente e in tante altre città è proprio quello di portare queste informazioni, dopo aver messo in piedi tutto quello che serve, le infrastrutture, le piattaforme, chi le gestisce, come noi di 5T, per raccogliere le informazioni e elaborarle, lo sforzo è quello di portarle nelle mani dei cittadini. Qui c'è una grandissima enfasi, infatti, come accennavo prima, alle applicazioni per smartphone che sono per tutti oramai il vero canale potente, guardando avanti ovviamente, di diffusione di tutti i tipi di informazione. Volevo tornare un secondo dell'aspetto dell'integrazione di applicazioni di questo tipo a livello di area metropolitana e a livello di benefici diretti per il cittadino. Ho visto che avete un progetto molto interessante che è quello del biglietto integrato Piemonte. Sì, glielo spiego molto volentieri perché è un progetto importante per noi che ci vede impegnati come 5T nel ruolo di coordinatori tecnici del progetto a livello regionale, quindi partner tecnologici della Regione Piemonte, che è anche uno dei nostri soci, ma che vede in tutto il Piemonte il coinvolgimento di circa 100 aziende di trasporto pubblico che hanno aderito a questa iniziativa, che proprio è un emblema poi dell'integrazione di cui anche parlavamo prima, perché l'obiettivo del progetto è quello della creazione e gestione di questa carta BIP, biglietto integrato Piemonte, che noi diciamo come motto carta bianca alla mobilità, che è appunto una carta microchip contactless che permetterà ai cittadini del Piemonte di usufruire dei servizi di trasporto pubblico in tutta la regione, indipendentemente dall'operatore di trasporto pubblico che opera il servizio sul determinato territorio, ma anche poi di accedere e di pagare con la stessa carta altri svariati servizi di mobilità, quindi dal bike sharing al car sharing ai parcheggi, e poi stiamo studiando anche l'integrazione di questa carta con altre iniziative non solo relative ai trasporti ma di tipo culturale. Ed è anche lo strumento importante per permettere alle aziende di trasporto pubblico, mi lasci dire molto semplicemente, di incassare nella maggior misura possibile quello che è il costo del servizio che fanno, quindi un modo per far sì che veramente tutti paghino il servizio di trasporto pubblico che utilizzano. Per semplificare, io ho questo biglietto elettronico, questa tessera che è permanente, e qualunque cosa faccia è la tessera che poi smista pagamenti, costi, io non ho più, insomma, non c'è più quella pletora di bigliettazione, e questo è il grande vantaggio per il sì, singolo. Questo è il grande vantaggio, che quindi fa sì che io possa essere titolare di un abbonamento acquisito da una azienda di trasporto pubblico, ad esempio da GTT, perché sono un cittadino torinese e ho acquistato un abbonamento annuale da GTT e quindi l'ho caricato su quella carta. Ma sulla stessa carta, per esempio, posso caricare un cosiddetto credito trasporti, quindi un importo a mia scelta, 10 euro, 20 euro, quello che mi sembra opportuno, ed utilizzarlo per viaggiare con altri operatori in Piemonte, in altre zone del Piemonte, sempre con la stessa carta, senza dovermi preoccupare di andare a acquistare altri biglietti o altri abbonamenti in altri uffici dove devo viaggiare. Senta, le farei un'ultima domanda, perché ho visto che fai punti di eccellenza di 5T, c'è anche il progetto Simone. Simone è acronimo del progetto Sistema Innovativo di Gestione della Mobilità nelle Aree Metropolitane. Quindi è uno strumento a supporto della gestione della mobilità nelle aree metropolitane. Significa che Simone raccoglie tutti i dati più diversi che riguardano la mobilità in una grande area per poi erogare dei servizi, e quindi richiede uno standard da parte di tutti coloro che li raccolgono. Sì. Significa che abilita la possibilità di dialogo fra tutte le flotte e i centri locali di controllo della mobilità. Quindi raccoglie, senza diciamo imporre nulla, però raccoglie tutto quello che è disponibile in termini di dati e consente il dialogo tra le varie flotte e i centri di controllo della mobilità, le centrali operative di controllo della mobilità. Questo è un po' il succo proprio. Rossella Panero, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, a risentirci presto. Grazie e arrivederci. Allora, qui vi abbiamo detto tutto. Che dire ancora? State facendo un po' di vacanze? Bene, riposate, sganciate un poco con i pensieri di questi tempi e poi tornate qui fra una settimana.